stacchiamo sul comodino. Proseguiamo sto cammino. Dicono che non riesco a fare le rime. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Depresso. Rimani connesso. C'è niente da guardare. Questa è una radio, non è un telegiornale. Non giochiamo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo al reparto olive. Non è che siamo qui a snocciolare, Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Sul comodino, proseguiamo sto cammino. faccio già. Gigi D'Agostino, e oggi va un po' dappertutto. Working on the sky, I see the moon, I see the light. Working on the sky, I see the moon, I see the light. Working on the sky, I see the moon, I see the light. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Tutto a posto. Se tu sei uno che si abitua molto facilmente alle cose e poi dopo dai e G ne sei schiavo, ce la puoi fare. Disposizione stabile della mente, stai ascoltando la frequenza sbagliata. Dai, cazzimma. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Thank you. giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. No, vabbè, dai. Sì, vabbè. Cioè, a lavorare tutti, forza. Tonight, M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ci vuole male. I don't know the stars.

Au, ciao, G. Da paura, ho fatto una cosa, la sentita? Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Gigi D'Agostino. Non giochiamo, non giochiamo. Gigi D'Agostino. Non giochiamo, non giochiamo. Gigi di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Rimani connesso.